Il modo migliore sarebbe quello di fare un'intesa bella, solida, duratura sul mercato del lavoro. Speriamo che proprio il ricordo di Marco Biagi, che aveva capito il mutare dei tempi, si possa trovare una cosa che sia giusta. Questo accordo che sembra ormai vicino va in questa direzione, secondo lei? Io penso proprio di sì. Marco Biagi 10 anni fa cadde sotto il fuoco dei brigatisti. Sono sempre temi molto delicati e quindi non ci sa mai, la sensibilità può sfuggire in qualche modo. Però io penso che ci sia una maturazione diversa delle problematiche e quindi una maggiore serenità. Sicuramente c'è un clima ideologico molto ben acceso. Si discute, ma senza arrivare a delle derive, a degli estremismi che invece purtroppo nei tempi di Marco Biagi ci sono state. Ecco. Questo per l'Italia è anche un momento anche più difficile forse di 10 anni fa. La tensione sociale ce n'è molto adesso e molto più di 10 anni fa, però adesso c'è una maggiore consapevolezza.